sembri un po' stupita, perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorata, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie d'orgoglio e di sesso, e invece niente no. Amanti, allora già intuivo che c'era qualcosa che mi sfuggiva, quella fragile eterea coerenza di bambina senza troppa pazienza. Tutte le occhie